e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, intanto bentornata. Grazie. Volevo chiederti se hai dato un'occhiata sul sito del Corriere della Sera, dove in prima pagina, verso il fondo, c'è questo video strepitoso. Andate a vedere. Di questo reality show spagnolo, La ricerca di anime gemelle fa persone un po' mature. Praticamente ad un certo punto della trasmissione, una delle signore che stava cercando l'uomo della sua vita si è addormentata in diretta. È strepitoso. Il conduttore, veramente, io lo ammiro tantissimo, perché a un certo punto fa anche una brutta battuta e dice: non sappiamo se sia morto o se sia addormentata. Russava della bella, si vede chiaramente dal filmato. Tu che dici? Magari non era interessata all'anima gemella, esatto. Aveva problemi magari con il sesso o problemi di sonno e di insonnia. Noi per tutti questi problemi abbiamo una soluzione, sappiatelo. Esatto, quindi insomma, se avete voglia di andare a cercare un'anima gemella in una trasmissione televisiva, ma il contenitore non è quello che fa il caso vostro, venite qua se avete problemi di insonnia, se esatto. Russate, comunque, noi siamo qua. Divertentissimo. State svegli però. Cominciamo subito con la nostra rassegna stampa. Allora, hai fatto caso che il caffè al bar costa da qualche parte qualche cosina in più rispetto ai giorni scorsi? Non l'ho fatto, ma adesso ci farò esatto. attenzione. Se n'è però accorta la collega Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, che questa mattina lo racconta appunto sulle pagine del quotidiano, e racconta di come stia prendendo proprio il volo il prezzo del caffè in borsa. Si è spinto ai massimi da luglio 2012, nel caso della varietà robusta, ma anche l'arabica sta spiccando un vero e proprio volo, c'è un rally in corso. E questo è l'ingrediente più prezioso della miscela dell'espresso, e per milioni di italiani, racconta Sissi, il rito quotidiano della tazzina è già diventato più caro. In diversi bar si segnalano aumenti di 10 centesimi, un problema che riguarda non soltanto il nostro paese ma in tutto il mondo. I torrefattori stanno alzando i prezzi in reazione a rincari che una volta tanto non dipendono solo dalla speculazione, ma magari ne parleremo nei prossimi giorni. Oggi la borsa è positiva a Milano, più 0,3%, il recupero del FTSE MIB a Piazza Affari dopo il calo di ieri. Sono invece negative di oltre mezzo punto le altre piazze europee. Migliori titoli di Milano: Banco BPM, UbiBanca, Fiat Chrysler guadagnano fra i 2 e i 3 punti percentuali. Si ferma un po' Luxottica, ieri non c'eri Nicoletta, abbiamo raccontato di questa grande operazione francese. Il titolo oggi è ancora appunto positivo, ma un po' meno ovviamente di ieri. Ha preso il volo, ha guadagnato 8 punti, anzi adesso meno 0,28%, il peggior titolo Mediaset meno 3,76%. Facciamo un veloce approfondimento nella nostra rassegna stampa, un tema che abbiamo già affrontato settimana scorsa. C'è una novità, anche questa oggi viene riportata su tutti i giornali, ma ve la raccontiamo a viva voce. Abbiamo parlato dell'ultimo caso che vede come protagonisti migliaia di risparmiatori italiani che attraverso gli sportelli di Poste Italiane hanno investito in fondi immobiliari, in particolare nel periodo 2002-2005. Uno di questi è giunto a scadenza a dicembre con una sorpresa piuttosto amara per i sottoscrittori, che hanno avuto modo di constatare che il capitale restituito è ben poca cosa rispetto al capitale inizialmente investito, colpa del sottostante di questi fondi, che è proprio rappresentato da investimenti nel mattone, edifici, costruzioni. La settimana scorsa abbiamo ricostruito la vicenda con Gianfranco Ursino di Plus 24 del Sole 24 Ore. Abbiamo ospitato anche Marco Siracusano, direttore di Banco Posta, che ci aveva anticipato appunto dell'iniziativa di Poste Italiane che sarebbe stata presa di tutela per questi risparmiatori. Non ne conoscevamo ancora il contenuto. Ieri Poste Italiane ha incontrato le associazioni dei consumatori, tutte le 20 del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. Allora, cosa è emerso da questo incontro? Che proposta ha fatto Poste Italiane? Ce lo racconta l'avvocato Maria Stella Anastasi, Lega Consumatori. Buongiorno avvocato e benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Andiamo subito allora concretamente a cosa è emerso. Cosa propone Poste Italiane per i sottoscrittori di questi fondi? Anastasia, avvocato. Sì, buongiorno. Dicevo, allora, innanzitutto è un fondo soltanto per adesso, esatto. Perché è un unico IRS. Fondo che è arrivato a scadenza, il fondo IRS appunto. Quindi Poste Italiane ieri ha incontrato, come diceva lei, le associazioni e ha proposto un'iniziativa di tutela a favore di tutti i clienti che presso Poste Italiane hanno appunto sottoscritto in collocamento nel 2003 le quote di questo fondo. L'iniziativa ha lo scopo sostanzialmente, ci è stato detto, di consentire ai clienti di recuperare la perdita, che è una perdita stimata, il fondo aveva delle quote, ogni quota era di 2.500 euro. Su questa quota la perdita stimata è di 1.452 euro circa per ogni quota posseduta appunto dagli investitori. Per cercare di far recuperare questo importo, Poste prevede un rimborso totale, quindi un'integrazione di 1.452 euro sulla differenza, perché mentre la differenza in realtà è già stata recuperata in parte con quanto è stato incassato dagli investitori e quanto verrà incassato con la liquidazione, certo, del quanto fondo, è stato incassato con i dividendi che nel frattempo sono stati distribuiti, esatto, sì. E quindi la differenza di 1.452 euro circa che è stata stimata da Poste verrà integrata da Poste. Per quanto riguarda le persone che al 31 dicembre 2016 avevano 80 anni, il recupero sarà al 100% della perdita e verrà immediatamente liquidata. Quindi la ricostituzione dei 2.500 euro inizialmente investiti verrà fatta immediatamente e liquidata immediatamente da Poste. Questo per i clienti che hanno compiuto 80 anni al 31/12/2016, che sicuramente rappresentano la fascia più debole di questi investitori, certo, i pensionati, coloro che sono i clienti abituali di Poste in Italia. Per tutti gli altri? Per tutti gli altri, l'ipotesi fatta da Poste è quella di prevedere la possibilità di sottoscrivere una polizza di ramo 1, ideata appositamente, in cui versare le somme liquidate dal fondo. Quindi, come dicevamo, la polizza prevede un contributo integrativo versato da Poste Italiane, che consentirà alla scadenza dei 5 anni di durata l'integrale recupero netto di questa perdita di 1.452 euro per ogni quota posseduta. Certo. Allora, il tema è adesso capire se tutto ciò piace a voi, Associazione dei Consumatori. So che chiaramente qualcuno è stata particolarmente già dura nel contestare le modalità con cui Poste Italiane ha ideato questa iniziativa di tutela. Detto ciò, partiranno in realtà, Avvocato Anastasi, so che lunedì prossimo vi incontrerete di nuovo ufficialmente il tavolo di conciliazione, perché voi dite in realtà, anche se è prevista questa tutela per gli ultra ottantenni, quello che a noi interessa è anche capire tutti coloro che hanno un'età diversa ma magari hanno situazioni di fragilità economica particolarmente importante, che forse, esatto, vanno tutelati nella stessa maniera. Quindi voi con che controproposta andrete al nuovo tavolo con Poste? Grazie. In realtà già ieri le associazioni hanno chiesto a Poste che venisse accolta una richiesta di costituire una commissione di conciliazione paritetica che individuasse una griglia di criteri, dal reddito alle condizioni generali e patrimoniali dei sottoscrittori di questi fondi immobiliari. Proprio al fine di riconoscere un rimborso immediato a tutti quei risparmiatori, come diceva lei, under 80, ma under 80 vuol dire magari di 79 anni o di, certo, 78, che versano in situazioni di difficoltà, e non possiamo negarci che queste persone, se gli venisse detto inserisci i tuoi risparmi, il residuo di questo fondo più l'integrazione che farà Poste in una polizza che a scadenza dei 5 anni ricostituirebbe i 2.500 euro di quota iniziale, qualcuno potrebbe avere delle difficoltà a lasciare queste somme per altri 5 anni, potrebbe avere necessità di liquidare subito. E quindi ci siamo detti, ci sono casi molto diversi uno dall'altro, abbiamo chiesto appunto a Poste l'istituzione di questo gruppo di lavoro, di questa commissione di conciliazione paritetica, la nostra richiesta è stata accolta. E adesso partirà l'elaborazione di questa, esatto, non sappiamo ancora la data precisa, se sarà lunedì o nei prossimi giorni, ma mi ero confusa perché so che lei lunedì incontra invece un'altra parte delicata che è Veneto Banca, sempre per appunto andare ad affrontare un'altra situazione della quale abbiamo parlato più spesso. Chiusa difficile. Parentesi, quindi Poste Italiane vi è venuta incontro, nei prossimi giorni sapremo appunto se c'è la disponibilità nell'elaborare questa griglia di situazioni. Al di fuori degli ottantenni che si vedranno invece indennizzati integralmente. Esatto. Anastasi, devo salutarla, però intanto grazie per averci fatto un punto della situazione. Noi ci torneremo, naturalmente è una situazione molto delicata sulla quale terremo costantemente aggiornati i nostri ascoltatori. Direi che è già tempo di andare a sentire cosa succede sulle strade italiane e poi pronti con il tema di cuore. cuore e denari. Eccoci tornati insieme, adesso noi parliamo di un tema che ci sta particolarmente a cuore, parliamo di genitori, parliamo di figli. La puntata di oggi nasce con il desiderio, con l'obiettivo di fare un po' una riflessione su tutto ciò che si è detto e letto a commento dei fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti dei giovani, dei ragazzini, adolescenti o preadolescenti, come li vogliamo chiamare, solo la settimana scorsa. Il suicidio di una 14enne che ha lasciato una lettera ai suoi genitori separati per scagionarli dalla sua morte, e lì è stato veramente un colpo al cuore. Poi il caso della giovane americana che si è tolta la vita in diretta su Facebook, il video ha avuto milioni di visualizzazioni. E pochi giorni fa il duplice omicidio nella provincia di Ferrara. Sono episodi molto diversi, ma che hanno come protagonisti proprio i nostri figli. Dico i nostri figli perché è inutile prendere le distanze, perché sono figli di tutti, figli di quella società che noi tutti, come uomini, come donne, stiamo costruendo. È davanti agli occhi di tutti, qualcosa è cambiato, qualcosa non c'è più, si è perso. Possiamo e dobbiamo comunque cercare di recuperare questo filo che lega le generazioni, e in questa società che indubbiamente possiamo definire come la società dell'incertezza, che si riflette anche sull'educazione, cioè questa incertezza educativa, noi genitori spesso non sappiamo più cosa dire, cosa fare, come comportarci. È importante, ed è, anche se è difficile, me ne rendo conto, sembrano solo parole, ma dobbiamo, le parole poi lasciano il segno, dobbiamo un po' cercare di riscoprire le modalità per rimetterci in contatto con i nostri figli e trasmettere quei valori che, nonostante la tecnologia, nonostante i tempi, rimangono dei valori che non passano mai di moda. Abbiamo chiesto ad Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta dell'età evolutiva, quindi di questa parte della vita dei nostri ragazzi così importanti, di venire in studio per darci una mano. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, buongiorno a tutti. Bentornato. Allora Alberto, che cosa sta succedendo? Sono cambiati i figli, sono cambiati i genitori, non riusciamo più a incontrarci, a parlarci, manca il tempo, mancano le risposte, manca la voglia di ascoltarci. Oggi sul Corriere della Sera ho letto un bell'articolo di Paolo Conti che cita John McFadden, editorialista del Guardian, che suggerisce la chiacchiera trasversale, cioè di approfittare dei tempi non sospetti, come dico io, quindi quando si va a fare la spesa, quando si prepara qualcosa in cucina, in bagno con le ragazze, se avete delle figlie femmine, siete donne, cioè tanto che uno si trucca e l'altro, per iniziare a magari introdurre dei temi, degli argomenti, e quindi coglierli un po' di sorpresa, ma iniziare ad agganciare così i nostri ragazzi. Alberto. Ma penso che ognuno di noi, se ripensa alla propria storia familiare, partiamo proprio dalla domanda: cos'è cambiato, no? Rispetto a quando noi eravamo ragazzi, di sicuro è cambiato il modo di fare famiglia e di stare in famiglia. Siamo tutti molto più multitasking, molto più accelerati. Questo consiglio arriva un po' proprio ad hoc, no? Ci dice proprio perché spesso non abbiamo lo spazio formale della relazione, del convivio familiare, perché siamo tutti in milioni di cose affaccendate, ecco, utilizziamo gli spazi informali, quel modo di trovarsi magari un po' sulla macchina mentre si va a scuola, nel bagno mentre ci prepariamo al mattino, ecco, cominciamo ad utilizzare quelli se sono i momenti in cui comunque riusciamo a fare famiglia. Credo che l'altro aspetto che probabilmente ha cambiato la vita dei nostri figli è che la loro crescita è stata davvero accelerata. Certo. Cioè in questo momento ai bambini viene chiesto di fare cose che probabilmente 30 anni fa facevano i preadolescenti, ai preadolescenti viene chiesto di fare cose che facevano gli adolescenti probabilmente sono sollecitati sull'area del rischio, per esempio, della trasgressione, a fare cose che noi cominciamo a pensare possibili per noi magari a 20 o 25 anni, e che loro invece a 14-15 anni hanno già un po' incorporato dentro al loro stile di vita. Quindi 800 24 00 24, un confronto tra genitori, ma anche con gli zii, parenti, gli amici. Non vogliamo, ci stiamo cercando di capire che cosa possiamo fare tutti noi, che contributo possiamo dare. Possiamo iniziare ad interrogarci pensando: qual è l'ultima volta che con vostro figlio, vostra figlia, vi siete seduti e vi siete guardati in faccia, a raccontarvi anche cose piacevoli, o in alcuni casi i genitori sono anche chiamati a sottolineare, ad affrontare dei temi che sono un po' scottanti, magari al ragazzo non piacciono, penso al profitto scolastico, ma penso anche al modo in cui si comporta. Alberto, questo potrebbe già iniziare a capire quanto e come noi riusciamo ad agganciare i nostri figli e che risposte abbiamo da loro, oppure se ci abbiamo in qualche modo rinunciato, perché si arriva anche a rinunciare al dialogo quando di fronte a tante sconfitte il genitore si ritira e viene meno al suo ruolo di educatore, di accompagnatore alla vita. Sì, direi che proprio in una sorta un po' di automonitoraggio di quello che ci succede in famiglia è davvero importante quello che dici tu, cioè proviamo a verificare lo spazio del dialogo in famiglia, quanto in realtà è attivo. Molte volte noi ci occupiamo solo del dialogo con i nostri figli e ci lamentiamo perché loro non parlano con noi, ma io direi che allenare al dialogo un figlio significa fargli vedere due genitori alleati al dialogo. Cioè la prima domanda dovrebbe essere: quanto stiamo parlando noi genitori, marito e moglie, papà e mamma, e quindi quanto nostro figlio impara da noi l'importanza dello stare in relazione attraverso l'ascolto e la comunicazione. E vorrei dire, tanti di noi sono adesso genitori separati, ma è cruciale che un figlio dentro alla separazione dei propri genitori veda in realtà che c'è una mente comune di mamma e papà che, non essendo più compagni di vita, continuano però ad avere un progetto educativo condiviso. Invece spesso la prima frattura avviene proprio dentro a quel conflitto che fa male a tutti. Allora, chi ha figli adolescenti lo sa bene, a un certo punto i figli diventano diversi. Può capitare nella preadolescenza oppure nell'adolescenza, che sono le due fasi un po' diverse ma ugualmente critiche, e i genitori lo mettono in conto e a volte accettano questa condizione come fisiologica. Alberto, non c'è il rischio che dicendo, sai, adolescente, no, c'è la battuta, è tutto preso da... si rischi di tralasciare dei segnali, dei campanelli d'allarme che invece dovrebbero essere ben evidenziati, e senza perché a tralasciarli si potrebbe poi rischiare grosso? Sì, credo che ogni volta che pensiamo ai nostri figli in quella fase della preadolescenza e dell'adolescenza è proprio importante che noi abbiamo una sorta di checklist mentale che ci dice un po' quali sono quelle zone della loro vita che devono comunque funzionare bene. Il progetto scolastico è molto importante, quello è proprio la zona del dovere, della fatica, del mettersi in gioco per costruirsi un futuro, quindi quella cosa lì deve funzionare bene nella vita di un figlio. È molto complesso farla funzionare bene, quindi un genitore deve capire qual è il suo ruolo per sostenere il percorso scolastico di un figlio, che non vuol dire sostituirsi a un figlio, ma proprio sostenerlo nel fare la fatica di fare la fatica di studiare. Eh sì, perché il genitore, abbiamo già Laura da Trento che vuole intervenire, la ringraziamo nella nostra discussione, le diamo appuntamento subito dopo il GR, perché vogliamo riflettere bene, fare le cose per bene, come ci insegna Alberto, perché questa relazione è davvero importante, dobbiamo costruirla, riprenderlo un pochino in mano, anche perché un genitore deve garantire sicurezza e libertà al proprio figlio. Queste due dimensioni spesso ci sembrano inconciliabili, ma ce la possiamo fare partendo dai nostri problemi, nella condivisione. Quindi aspettiamo le vostre telefonate. Laura da Trento inaugurerà la seconda parte di questa chiacchierata con Alberto subito dopo il GR. Intanto 800 24 00 24 per mettervi in contatto con noi, vi aspettiamo dopo il nostro GR. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Thread Needle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Come genitore non ero pronto alla preadolescenza di mio figlio. Durante la scuola primaria tutto era facile e abbastanza prevedibile. Poi è iniziata la scuola media e la nostra vita è cambiata. La casa sembra travolta da uno tsunami. Mio figlio è un'altra persona. Non lo riconosco più e non so che cosa fare. Non mi dà retta, anzi, e non so che cosa fare. Non mi dà retta, anzi, quando gli dico qualcosa è capace anche di prendermi in giro. Improvvisamente mi vedo impotente e incapace. Vi riconoscete? 800 24 00 24, lanciate il vostro SOS, pronto a darmi un consiglio, a confortarvi anche qua in studio Alberto Pellai, e questo è l'incipit del libro che proprio oggi esce in libreria, edito da De Agostini, intitolato L'età dello tsunami. Alberto Pellai l'ha scritto insieme a Barbara Tamborini, insomma una coppia di esperti che sono sul campo, perché siete marito e moglie, anche madre e padre di quattro figli, Alberto. Sì, abbiamo un piccolo laboratorio domestico probabilmente sul tema, e comunque ci confrontiamo, no, nel nostro lavoro con genitori che magari stanno facendo fatica. Quindi dovranno essere particolarmente bravi i vostri figli a mettervi alla prova, insomma dovranno... Ma sono, come direi, tutti gli altri figli, e noi cerchiamo di tenere testa. Allora, L'età dello tsunami, un titolo che la dice lunga, perché la preadolescenza? Perché tu in questo libro parli della preadolescenza, ma se prevenire è meglio che curare, è meglio iniziare da piccoli, può essere, è considerata l'età dello tsunami. Tutti noi vediamo che si trasformano i figli. Perché è proprio l'età del cambiamento, i genitori sentono proprio la potenza della trasformazione dei figli, aumenta tantissimo la quantità, aumentano le richieste che i figli fanno ai genitori, e fondamentalmente non li abbiamo più alleati, non vogliono più giocare nella nostra stessa squadra, si mettono dall'altra parte della fune, cominciano a tirare fortissimo e quindi impongono un po' ai genitori un cambio di passo. Che cosa significa? Proprio le due parole che hai citato tu anche prima della pausa. Cosa significa continuare a proteggere un figlio, a farlo sentire sicuro, ma allo stesso tempo permettergli di andare fuori nel mondo, esplorare le relazioni, esplorare nuove situazioni di vita? Non si può non attivare il codice esplorativo in adolescenza, non si può non permettere a un figlio di diventare qualcosa di diverso da quello che è stato fino a quel momento. Molti genitori e anche magari diverso da quello che noi vorremmo, certo, perché non è che possiamo costruire i nostri figli. Laura ci sta aspettando da prima del GR. Deborah, che dici? È il momento di darle sentire un super benvenuto e anche un libro, esatto, per tirarla su dall'attesa. Ci vuole raccontare lo tsunami di casa sua. Laura, benvenuta. Buongiorno, grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie Laura. Allora, ci faccia entrare a casa sua, così. Sì, volentieri, molto volentieri. Io sono mamma di tre ragazzi e la più grande ha 14 anni, va in prima superiore, va per i 15. E io ho un problema con lei, che noi come genitori facciamo una gran fatica a comunicare con lei. Sono un paio d'anni che lei ha un atteggiamento molto chiuso e non si riesce proprio a capire quello che lei prova, i suoi sentimenti, ma anche con la scuola, quando si parla della scuola, e anche con gli insegnanti ha questo atteggiamento di chiusura, proprio di rifiuto. E noi abbiamo provato di tutto per cerchiamo di parlarle tutti i giorni, di cercare di farle delle domande, anche proprio per cercare di capire qualcosa, ma non riusciamo a penetrare. È proprio, sì, si ha l'impressione a volte che abbiano proprio tirato giù la Claire di lì. Esatto. Certo. Bravissima. Che si prova, si riprova e provi a parlarle, provi con le buone, provi con le cattive, provi con i castighi e provi a stare zitto tu e provi a far parlare il padre. Mamma mia, Alberto, allora scardiniamo questa porta. Dovremmo un po' ripensare i nostri figli preadolescenti in quel passaggio lì, spesso un po' come i bambini che nei primi 2 anni fanno veramente fatica a dare parola a tu, perché non hanno i codici, non sanno come si fa, e il preadolescente deve reimparare proprio una sorta di linguaggio per la sua nuova vita, una nuova nascita sociale, e quindi in molti casi è proprio affaticato dall'idea di che cosa posso dire, cambia poi da temperamento a temperamento e da personalità a personalità. Quando il codice delle parole non funziona, può funzionare il codice delle azioni, proprio come avevi ricordato tu, Nicoletta, nei momenti informali, il bagno, cantare una canzone insieme, fare a volte anche andare dal parrucchiere insieme, una mamma con una figlia, proporre proprio una mezza giornata in cui non ci diciamo niente di speciale. Toglierci dai binari soliti della comunicazione per cercare degli spazi in cui abbassa un po' le difese. Le difese, magari proprio perché in questa fase dell'esplorazione, programmare, se ce lo possiamo permettere, 3 o 4 giorni dove mamma e figlia fanno un viaggio in una capitale europea e faranno un'esperienza proprio esclusiva dove stanno a fianco, non necessariamente devono parlare di loro, ma devono programmare la gita nella grande città, e quello che succederà è che spesso in quelle situazioni condivise i figli abbassano anche un po' le difese e pian piano cominciano a rientrare in relazione con l'adulto. Alberto, la prima parte del libro confronta i genitori con le principali sfide evolutive che per mamma e papà diventano sfide educative, li mettono davvero alla prova, sono tipiche di questa fase della crescita. Ci vuoi ricordare le più importanti, così chi non le sta ancora vivendo si prepara? Ma certamente il corpo che cambia, e soprattutto per le ragazze la propria immagine corporea, autostima corporea è un tema grandissimo, stanno tantissimo tempo davanti allo specchio, anche se sono molto belle si sentono magari non sufficientemente belle o si vivono come brutte. Poi la sfida della sessualità, che impone a noi genitori di avere un buon progetto di educazione affettiva e sessuale da condividere con un figlio, far vedere che siamo proprio in grado di contenerli, di dare a loro risposte, di sostenerli in questo percorso, che non siamo imbarazzati oppure impauriti. E poi la sfida per eccellenza è la relazione con gli amici. Quello che noi sperimenteremo è che cercheranno di essere sempre meno nostri e sempre più degli altri. Certo. E quindi avranno una grande richiesta di fare cose insieme agli altri. Allora lì è molto importante costruire esperienze di libertà e di autonomia con gli amici, che però non devono essere anarchiche e selvagge, cioè deve essere sempre presente ci deve essere un presidio educativo adulto. Quindi ecco perché le attività delle associazioni sportive, dei gruppi degli oratori, dei centri di aggregazioni, dei gruppi scout sono molto molto utili, permettono a loro di vivere il gruppo, la dimensione del gruppo, con però un progetto educativo che è presidiato e monitorato magari da un adulto. Il nostro numero verde a vostra disposizione 800 24 00 24. Alberto, passeremo naturalmente alle domande dei nostri ascoltatori che, raccontandoci il caso concreto, possono avere da te un consiglio, un'indicazione. Ma prima vorrei parlare di neuroscienze, perché una parte del vostro libro è dedicata proprio a quello che le neuroscienze hanno scoperto intorno ai cambiamenti e alla trasformazione del cervello in questa fase della vita. Sono davvero tante le cose che indicate in questa sezione specifica. Per essere concreti, quali sono i 3 consigli mediati dalle neuroscienze che potresti condividere con i genitori all'ascolto? Ma la prima cosa è che i nostri figli in preadolescenza hanno il cervello emotivo molto più, cioè il cervello che sente, molto più sviluppato e maturo del cervello cognitivo, il cervello che pensa. Quindi sono davvero tutti emozioni, e quindi quando si arrabbiano esplodono e ci dicono magari cose terribili. Quando si innamorano lo fanno, esatto, sono proprio l'uomo quelle della vita, esatto. Totalizzato. Ecco, è fondamentale fondamentale che il genitore stia tranquillo, veda un po' tutto nel relativismo del passaggio, perché per esempio ci dicono nei litigi cose tremende. Sì, ti odio. Esatto. Invece il genitore mi stai solamente antipatico in quel momento lì. Secondo consiglio che potremmo dire è che proprio questo cervello emotivo interferisce tantissimo con la loro attenzione e concentrazione, quindi fanno anche molta fatica a studiare perché sono tantissimo distratti. Allora il ruolo di un genitore potrebbe essere, per esempio, mettere un limite alla presenza delle tecnologie nei 90 minuti del pomeriggio in cui più frequentemente loro studiano, dire dalle 14:30 alle 16 il cellulare rimane in cucina. Ma tu dici così, ok, ma se poi il ragazzo invece non lo fa? E di tu nuovo, cosa fai? Ecco, su quello dobbiamo sentire che gli adulti siamo noi. È ancora importante su piccole cose che esserci. Però sono esserci, cioè non essere così spaventati dal fatto che loro sembrano invalidare la nostra posizione di adulti, perché hanno davvero bisogno dell'adulto. Se l'immagine è quella del tiro alla fune e il tiro alla fune serve ad allenare la loro muscolatura emotiva, questo allenamento ha senso solo se dall'altra parte c'è un adulto che tira forte, perché se vogliamo subito la fine. Allora vediamo, perché noi ci ha ascoltato in silenzio una grande esperta, perché queste cose le vive sul campo, le ha vissute, le sta ancora forse vivendo. Abbiamo in linea con noi Amalia, ciao di Radio buongiorno. Immaginaria. Buongiorno a tutti, buongiorno. La nostra ragazza di oggi, perché noi genitori parliamo, ce lo diciamo, la raccontiamo, ci lamentiamo e però poi anche vogliamo sentire la voce anche di voi ragazzi. Esatto, sì, io tra l'altro sono ancora nel pieno di questa adolescenza, mi chiedo quando mai mi passeranno i brufoli, non ho ancora ricevuto una risposta, quindi sì, esatto. Sei nel posto giusto anche nel posto questo. Giusto, perché facciamo anche delle puntate su acne, che è difficile da curare, ma si può curare, quindi continua a seguirci o scrivici, esatto. Ma intanto Amalia, Alberto ha suggerito un po' delle strategie, dei percorsi, abbiamo descritto un po' questa relazione che è così difficile, ma vogliamo sentire anche come ci vedete voi, perché vi siamo così improvvisamente, ci vedete con un altro paio d'occhiali, come dice Alberto, non vi piacciamo più, non si rompe quella magia che ci faceva sentire così amati da voi, la mamma perfetta, il papà adorato, la mamma più bella del mondo. Mi sembra proprio di sentire i miei genitori, infatti mi ritrovo molto in quello che dite, mi sono molto immedesimata, per esempio nella chiacchiera trasversale, vero, a me capita ancora adesso che comunque sono un po' più grande, che magari i miei genitori vogliono sapere che cosa ho fatto durante la giornata, e proprio il fatto che me lo chiedano, non lo so, mi viene automatico non dirglielo proprio perché mi dà fastidio, poi magari in macchina senza problemi o mentre si fa altro, ben volentieri. E il fatto è che a me quando avevo 12 anni sembrava che fossero i miei genitori a cambiare, perché improvvisamente c'era una sorta di difficoltà comunicativa che però a me sembrava che fosse colpa loro. Io volevo uscire con i miei amici e mia mamma ci rimaneva male, mi diceva ma cos'hai? E a me veniva da chiederle ma cos'hai tu? Io voglio stare con i miei amici, che male c'è? Vero. Secondo me potremmo questa fare la domanda anche a voi. Esatto, questa vedi Alberto, potrebbe essere un'altra lettura. Noi li vediamo cambiati, ma forse loro dicono ma sono cambiati, è cambiato questo qui che non prima capiva e anticipava tutti i miei desideri, adesso che gli dico che cosa voglio fare, di che cosa ho bisogno, mi dice no, si mette il muso, è pieno di ansie. Allora abbiamo Alberto della provincia di Como, buongiorno Alberto, e poi subito dopo abbiamo Gaetano da Savona, due uomini. Alberto, buongiorno. Allora, buongiorno, sono Alberto, ho quattro figli e guarda caso sto scrivendo anche un libro, quindi mi trovo molto in sintonia col vostro esperto. Questo libro si intitola Io ho quattro figli e / è un'impresa di famiglia. Sì. Questo libro è collegato al fatto che io avevo un'impresa di famiglia che sosteneva questa famiglia anche da un punto di vista economico, poi l'impresa di famiglia è un po' saltata. Vedi, per un po' un tema alla cuore denari, ma Alberto, dato che i minuti vanno e vorrei dare anche la parola agli altri ascoltatori, mi dia il suo contributo, poi al libro ci pensiamo, intanto buona scrittura, mi dica, ha un consiglio, un tema su cui vuole intervenire? Io quello che diceva prima il vostro esperto, il fatto del... riconoscenza del corpo da parte dei figli. Ho avuto una crisi con la seconda ragazza, Valentina, che nella sua crescita, vedendo noi alti e snelli, io e mia moglie, tutti quanti molto... Sì, magari lei era un po' più morbida e allora si creano magari dei... È avuto veramente una crisi esistenziale dove è arrivata a mettersi il dito in bocca per vomitare, quindi... E quindi questo è un momento critico, Alberto, e tu l'hai accennato proprio nel libro, ne parli, proprio come uno degli aspetti da presidiare. Alberto? Sì, direi che di fronte a comportamenti che sono... così vicini all'area della patologia, un genitore non deve rimanere solo, probabilmente c'è proprio qualcosa che anche come genitori possiamo fare, ma che magari non sappiamo decidere e trovare da soli. Chiediamo aiuto al pediatra. Ecco, chiediamo aiuto. Gaetano da Savona, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Allora, volevo solo portare un esempio. Io ho due figli, uno di 26 anni, uno di 18. Il primo è stato così tirato su insieme ai nonni, e praticamente i nonni tutto fanno meno che insegnare la rinuncia. Invece il secondo figlio è stato seguito totalmente da mia moglie in maniera responsabile e completa, e posso dire che è cambiato completamente l'atteggiamento. Io direi due cose: coerenza da parte dei genitori e soprattutto insegnare il valore della rinuncia, la rinuncia per ottenere altro. Questa è la ricetta di Gaetano, Alberto. Sì. Ma credo che quello che ci dice Gaetano è importante per tutti, nonni, genitori, anche, educatori, cioè il aiutare i ragazzi a sostenere anche il senso del limite e a definire proprio un confine al di là del quale quello che fai diventa trasgressivo e può essere pericoloso. Se lo riconosci, se sai che quel limite c'è, se riesci a tollerare anche la frustrazione della fatica, certamente ti stai allenando, stai costruendo quella muscolatura emotiva. Effettivamente questo per i ragazzi di oggi è un po' più difficile rispetto al passato. Siamo genitori che li amiamo moltissimo. Io faccio l'esempio: prima elementare, quegli zaini pesantissimi ce li portiamo noi sulle spalle. Quinta elementare non è cambiato niente, loro magari sono più grandi di noi, ma fuori da scuola abbiamo ancora noi il loro zaino sulle spalle. Ecco, questa immagine ci fa vedere che loro cambiano e noi siamo ancora lì a volte a tamponare delle fatiche che loro invece sono perfettamente in grado di sostenere. Allora, come dice Gaetano, più che la rinuncia, il concetto è: qual è quella zona di impegno che io posso attivare in questo momento della crescita di mio figlio, perché lui è capace di sostenerla, e se io gliela faccio vedere e lo sostengo, lui riuscirà a farle, quindi impara un pezzetto di vita in più. E si attraversa l'età dello tsunami. Tra l'altro abbiamo il piacere di presentare il libro, posso dire, in anteprima. Mondiale. Planetaria. Allora Amalia, forse anche Amalia, chissà, un domani scriverà un libro con l'età dello tsunami. Dotata di una parlantina... Sì, dalla parte dei bambini e dei ragazzini. Amalia, allora, anche a te chiediamo un consiglio per ritrovare un po' questo codice, per riprendere la relazione. Quindi non fate domande dirette, cosa hai fatto, dove vuoi andare, eccetera, perché il ragazzo tende a scappare. Questo era già un messaggio di Amalia, insomma, accogliali quando meno se lo aspettano, di sorpresa. No, e quello che voglio dire è che chiaramente ci sono dei fattori oggettivi che abbiamo sottolineato prima, si cambia il corpo, il cervello, però questo sentimento che io ho provato, adesso magari un po' meno, ma mi ricordo, era davvero fortissimo, di non essere né carne né pesce. Molto spesso io mi confrontavo con adulti che mi dicevano: capirai quando sarai più grande, e consideravano questa età come totalmente qualificante per ogni mia opinione, e questo mi dava un grandissimo fastidio, quindi a volte mi comportavo anche volendo da adolescente testarda, proprio per dire: va bene, mi volete chiamare così, adesso allora mi comporto in questo modo e vi do del filo da torcere. Quindi poi è quello che stiamo facendo anche con Radio Immaginaria, in maniera un po' ironica, far diventare questa età, che è un'età secondo me potentissima, perché ci sono dei... Poi io sono stata più adolescente che altro nella mia vita, quindi non so come sarà l'età adulta. Sì, perché nascete che siete adolescenti o preadolescenti, vero Alberto? A 6 anni sono già preadolescenti. Sono proprio più accelerati di noi. Ecco, molto più accelerati. Dovete aver pazienza, noi siamo un pochino più lenti, facciamo fatica a carburare, ma passetto dopo passetto ce la faremo, naturalmente con il vostro aiuto. Amalia, sei stata straordinaria, mi piace molto. Grazie, condivido e ricambio totalmente il sentimento, grazie mille. Grazie, a prestissimo. Alberto, allora, l'età dello tsunami, e Deborah diceva, certo, che dove la trovi tutta questa energia? Ah, e questa, che cosa mangerà Alberto per scrivere dei libri così facciamo belli, dare le ricette con puntuali di grande successo? In realtà probabilmente vengo alla pompa di benzina, cioè a questa trasmissione, mi ricarico, poi esco e faccio tutto. Te l'hai ripreparata questa furbata, no, sei un furbone. Grazie ad Alberto Pellai e grazie naturalmente agli amici che sono intervenuti, ci avete scritto anche tantissimo, tanti WhatsApp. E, Alberto, in bocca al lupo. Alla prossima, grazie mille. Mi occuperò Andiamo. Adesso della borsa, sì, poi prendete l'ultima bolletta che vi è arrivata, vi spiegheremo un po' le novità che vi arriveranno nelle prossime bollette di luce e gas, tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Fuoco, acqua, elettricità. Fuoco, acqua, elettricità. Allora, il nostro Carmelo Lauricella ha aperto davanti a sé sul suo monitor la bolletta del gas che è arrivata proprio questa mattina e mi ha già chiesto: spiegami tutto, voglio sapere che cosa cambia quest'anno, ma più che farlo io, perché non mi voglio avventurare in un terreno che chiamarlo complesso è proprio un eufemismo, ma abbiamo interpellato questa mattina un amico di Cuore e Denari, un grandissimo amico, Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali di Codici, centro per i diritti del cittadino, un grande esperto di queste tematiche. Ben ritrovato e di nuovo buon anno, anche se gli auguri ce li siamo già fatti e lei. buon anno a tutti i radioascoltatori. L'abbiamo interpellato qualche giorno fa quando abbiamo avuto comunicazione da parte dell'autorità dell'energia e il gas appunto degli aumenti che arriveranno nei prossimi trimestri. Detto questo, a parte questi aumenti, questa è solo una delle novità che riguarderà le nostre bollette, perché il 2017 a quanto pare sarà un anno particolarmente ricco in questo senso. Intanto è stata annunciata la chiusura del mercato a maggior tutela. Poi, questo è molto importante, sì, adesso gliele faccio spiegare nel dettaglio, intanto faccio la breve sintesi, il breve sommario. Sì. Aumentano i bonus sociali per le famiglie in stato di bisogno, arriva la riforma tariffaria e diventa obbligatoria la conciliazione in caso di controversie. Quindi quattro punti che dobbiamo spiegare tutti bene, Gabriele, ai nostri ascoltatori, che possono interpellarci all'800 24 00 24 se nel frattempo stanno affrontando qualche grana legata alla bolletta dell'elettricità o del gas e se già il 2017 è partito con qualche brutta sorpresa e qualche bolletta particolarmente complessa. Andiamo all'abolizione subito come primo tema del servizio a maggior tutela. Cosa significa, Gabriele? Cosa succede e quando avverrà in maniera definitiva questo cambiamento? Allora, è attualmente in discussione alle Camere, attualmente veramente fermo al Senato, il DDL concorrenza, il disegno di legge sulla concorrenza. Ha un particolare punto di questo DDL, prevede che in Italia, da decorrere dal 30 giugno del 2018, venga a cessare di esistere la doppia presenza di un mercato tutelato, ovvero quello dove i prezzi li stabilisce l'autorità per l'energia elettrica e il gas, e un mercato libero, ovvero un mercato dove i prezzi vengono concordati tra le parti, tra il consumatore e l'operatore della vendita di energia elettrica o di gas. Oggi nel mercato tutelato si trovano circa 25 milioni di utenze tra l'energia e il gas, sono prevalentemente utenze domestiche, significa che i consumatori non devono mai preoccuparsi di nulla, né delle variazioni di prezzo né delle condizioni contrattuali, perché le stabilisce appunto l'autorità di regolazione. Se viene approvato questo DDL concorrenza e quindi il termine del 30 giugno 2018 rimane, vuol dire che tutti i consumatori italiani entro quella data dovranno necessariamente trovarsi un fornitore di energia elettrica e di gas, stabilire le condizioni contrattuali e quindi, come avviene per la telefonia, avere a che fare direttamente con un fornitore che stabilisce sia le condizioni inserite all'interno di contratto che le condizioni di prezzo. Scelta che hanno fatto in questi anni molti cittadini italiani, molte famiglie, non sempre in maniera semplice e agevole, perché abbiamo più volte rappresentato ai nostri ascoltatori, raccogliendo anche i loro casi, appunto, quante difficoltà ci sono nel avventurarsi sul terreno del mercato libero, sia per quanto riguarda l'uscita dalle precedenti condizioni contrattuali, perché il vecchio operatore lascia con difficoltà, sia per le difficoltà che ci sono nell'attivare questi nuovi contratti. Spesso ci si avventura, come dicevo prima, in un terreno davvero complesso, Gabriele. Quindi, chiusa parentesi, cosa succede appunto per questi 25 milioni di utenze domestiche che appunto rimangono attualmente ancora nel mercato tutelato? Allora, fortunatamente ad oggi, fin quando non c'è l'approvazione del DDL concorrenza, in teoria possiamo fare sonni tranquilli, cosa che comunque ha avuto una grande accelerazione in questi giorni dopo il nuovo governo, e quindi inizierei a preoccuparmi anzi a fare brutti sogni. Tra l'altro, questo è un provvedimento che generalmente viene revisionato e approvato ogni anno, no? Con delle novità. Si chiama legge annuale sulla concorrenza, ma sono due anni che è in questo disegno di legge. Devo dire, per quanto riguarda la nostra posizione politica, per fortuna, noi non siamo d'accordo per il semplice fatto che in Italia già c'è la libertà di scelta, chiunque può scegliere qualsiasi operatore. Il problema è obbligare invece 25 milioni di utenti necessariamente a scegliersi un operatore, quando questi 25 milioni sono tranquillamente nella condizione di non voler scegliere. Perché significherà che in automatico verranno espulsi dal mercato tutelato. Il paradosso è che se non scelgono entro il termine, si ritroveranno nel cosiddetto mercato di salvaguardia, che è il mercato dove vanno a finire coloro che non sono disalimentabili. Anzi, nello specifico si chiama regime di tutela simile. È questo? No, è il regime di tutela simile, un altro regime transitorio, è un'altra cosa di dopo. Addirittura, tanto per complicarci. Tanto per dare un quadro della semplicità. Esattamente. Se tu non scegli entro il 30 giugno, andrai a finire in un limbo dove, in quel limbo, siccome che non ti possono, se tu non sei moroso, se tu hai sempre pagato l'utenza, non ti possono staccare la corrente, ma non hai scelto, siccome che non hai scelto, in quel limbo le forniture costano, i prezzi costano il 40-50% in più, questo lo stabilisce proprio l'autorità. Quindi, siccome che tu non hai scelto, pagherai il 40-50% in più dell'energia, si chiama mercato di salvaguardia per coloro che non sono disalimentabili. Mentre in quest'anno, questo qui che è appena entrato, il 2017, se vuoi iniziare a imparare a muoverti nel cosiddetto mercato libero, quindi a fare un po' di esercizio, come dice il presidente Bortoni, hai diritto ad accedere a un mercato che si chiama di tutela, dove è libero il mercato, ma le condizioni contrattuali solo per 12 mesi sono uguali a quelle del mercato di tutela, quindi si chiama tutela simile per questo motivo. È come se tu ti rivolgi dall'operatore blu a cui sei sempre stato, vai all'operatore rosso, ma siccome non ti fidi ancora di rosso, chiedi che ti faccia un contratto e abbia le stesse condizioni stabilite dall'autorità. Poi, se l'operatore rosso ti piace, dopo 12 mesi puoi decidere di rifare il contratto con questo a nuove condizioni. Allora, direi di archiviare subito qua questo argomento, Gabriele, giusto perché ancora non abbiamo il provvedimento sulla concorrenza. Abbiamo a malapena attivato, perché è partito dal 1 gennaio di quest'anno, questo regime di tutela simile, e prima di far partire appunto il regime di salvaguardia, ancora del tempo ce ne sarà, il tutto partirà da giugno del 2018, intanto abbiamo cominciato a preparare un po' il terreno ai nostri ascoltatori a questo cambiamento, sul quale sicuramente torneremo anche nelle prossime settimane. Andrei invece all'altra novità importante, prima della risoluzione delle controversie con i gestori e l'obbligatorietà del passaggio appunto della conciliazione, vorrei invece occuparmi delle persone, delle famiglie in difficoltà, visto che anche di queste abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, raccontando delle novità che ci sono appunto per coloro che hanno sottoscritto i fondi immobiliari presso le Poste, siccome anche lì qualche iniziativa di tutela ancora più forte verrà individuata per coloro che sono in difficoltà economiche, andiamo a quelli che invece non riescono a pagare le bollette. Aumentano gli sconti già previsti e precedentemente in vigore. Di quanto, Gabriele? Aumentano abbastanza, perché passano dal 20 al 30% sulla spesa tipo, attenzione, cioè nel senso, si ipotizza che una famiglia media abbia una spesa tipo che consuma un certo quantitativo di kilowattora. Su quella spesa tipo si passa quindi da quelli che sono gli attuali 112 euro a 165 euro, quindi incrementa del 10%. Il bonus è un uno sconto che hanno diritto in bolletta a tutti coloro che hanno delle determinate condizioni reddituali. Le condizioni reddituali si verificano attraverso non la dichiarazione dei redditi, ma l'ISEE. Infatti la prima cosa è farsi calcolare l'ISEE. Oggi, dal 2017, se si ha un ISEE fino a 8.107 euro, e vi assicuro che un ISEE 8.107 euro ce l'hanno due impiegati normalissimi con un figlio a carico e un affitto da quindi pagare. Non è proprio una condizione di marginalità estrema, ma anche molto diffusa, ottimo, meglio così, così insomma, bonus Il problema è che i cittadini non lo sanno. Come fare a saperlo? Innanzitutto su internet ovviamente c'è il portale dedicato ai bonus energia attraverso il sito dell'autorità, e i bonus vengono erogati attraverso una domanda che si fa o al CAF o al comune. In genere prima si andava al comune a chiedere il sussidio, oggi i comuni non hanno più i soldi, anziché il sussidio però si può chiedere di accedere attraverso il portale appunto all'erogazione del bonus. Non è poco, non è nemmeno tanto, ma il problema è che sono quasi 4 milioni di utenze che ne avrebbero diritto che non lo chiedono. Soltanto circa 1 milione di utenze in Italia chiede il bonus, ma ce ne sono 5 milioni che ne avrebbero diritto. Certo che potrebbe esserci anche un'iniziativa, mi immagino, su scala locale da parte degli enti locali, delle amministrazioni locali, che potrebbero anche un po' raggiungere determinate famiglie appunto che potrebbero aver bisogno. Però qua sto parlando anche un pochino di fantascienza, Gabriele, no? Tra l'altro il bonus non è solo sull'energia, anche sul gas. Esatto. Non è soltanto per coloro che hanno il contatore autonomo, coloro che vivono in condominio e hanno la stessa condizione reddituale, perché molti si chiedono: ma se io sono condominiale, certo, e questo è sul singolo contatore? No, per coloro che sono condominiali, per il riscaldamento, se hanno le condizioni reddituali ottengono addirittura i soldi in contanti, gli arriva un assegno. Poi un'altra cosa è quella per i cosiddetti soggetti che hanno la necessità di essere connessi alla rete elettrica, coloro che hanno dispositivi salvavita, esatto, in casa, hanno macchine salvavita oppure hanno, non so, l'ascensorino elettrico e così via. Quelli che hanno una spesa elettrica molto alta, perché ovviamente quelle macchine sono connesse sempre alla rete, molti non sanno che hanno diritto a uno sconto ancora più sostanzioso, cioè sono ancora più soldi per queste persone che si trovano in particolare condizione di disagio fisico. Il disagio fisico è motivato da semplicemente una certificazione che fa il medico, che dice: chiarissimo, il mio paziente ha bisogno di... Certo. Insomma, noi ci proviamo a divulgare questa informazione. Devo riconoscere che qualche tempo fa anche l'autorità del gas e dell'energia ci aveva chiamato per chiedere proprio il nostro aiuto per distribuire quanto più possibile queste informazioni. Gabriele, vorrà dire che ci ritorneremo. Adesso facciamo un'apposita pagina su Facebook e proviamo appunto a raggiungere quante più persone che hanno bisogni appunto possibili. Detto questo, c'è il traffico adesso e poi per esempio c'è Giovanna dalla provincia di Savona, che è un caso di questi, e l'ascoltiamo tra pochissimo. Cuore e denari. Come di buon umore, nonostante la bolletta. Oh, perché le regole dell'energia elettrica stanno cambiando. Finalmente la tariffa di rete viene ripulita dai sussidi. E tutti pagheranno in modo più equo per far arrivare a casa l'elettricità. E saranno liberi di usare elettrodomestici eco-efficienti come me. O come lui, che ci riscalda e ci rinfresca. E per le famiglie bisognose c'è il bonus sociale. È già partita la riforma tariffaria dell'elettricità. Luigi Gabriele, ma a casa sua il frullatore parla con il microonde, con il tostapane, così come succede in questo spot? Beh, della verità sono io che parlo con loro. Allora, la rende ancora più simpatica. Sì, allora guardi, Nicoletta ce ne ha un po' bravi per lei, se vuole la faccio parlare con qualcuno. Allora, questo era uno spot che annuncia e illustra i principali elementi della riforma tariffaria, un'altra grande novità con la quale avremo a che fare prossimamente. Prima di spiegarla però, Gabriele, la domanda di Giovanna dalla provincia di Savona all'800 24 00 24. Giovanna, ecco a lei. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Vi ringrazio di consentirmi di esporre il mio caso. Noi siamo una famiglia, marito e moglie, pensionati statali, e abbiamo un figlio maggiorenne disoccupato, il quale, su suggerimento del CAF, è stato collocato da noi in comodato d'uso in un alloggio piccolissimo che abbiamo. Per fare la pratica della riduzione, cioè del bonus, dello sconto in bolletta, sì. Ci hanno detto che bisognava fare l'ISEE, e noi abbiamo fatto l'ISEE di nostro figlio, il quale non ha nulla, né un lavoro né niente. E abbiamo portato tutta la pratica e ci hanno detto invece che siccome lui non percepisce nulla, è incapiente, non gli spetta lo sconto? Esatto, no, e hanno detto che l'ISEE lo dovevamo fare sul nostro reddito. Io faccio due riflessioni. La prima è che noi che siamo pensionati già vecchi e dobbiamo già provvedere a questi figli che disperatamente cercano lavoro, dobbiamo anche caricarci di quest'onere. E a fronte di giovani che con 500 euro di bonus, tra virgolette, cultura, se lo rivendono a 300 euro su internet, alla faccia della cultura. Ah, mi c'è pure questo traffico, Giovanna, pensi un po', questo ci sfugge. Guardi Giovanna, non riesco a darle altro spazio perché devo chiudere tra poco. Detto ciò, esamino il suo caso proprio solo dal punto di vista dell'istruttoria che ha dovuto seguire per chiedere il bonus. Gabriele, gli incapienti... Nulla. Allora, assolutamente il bonus lo può chiedere l'intestatario dell'utenza, quindi lo riceve l'intestatario dell'utenza, ma sulla base dell'ISEE dell'intero nucleo familiare, quindi devono essere connesse queste due cose. Se il figlio è intestatario dell'utenza, però poi deve rientrare all'interno dell'ISEE del nucleo familiare. Su questa cosa dell'incapienza veramente non la sappiamo, forse dovremmo un attimino... Mi coglie un po' di sorpresa. Sì, è un po' come succede per esempio a coloro che magari hanno un po' di risparmio, fanno una ristrutturazione dell'abitazione, però non percependo alcun reddito e spendendo tutto quello che hanno, in realtà non possono utilizzare gli incentivi fiscali legati alla ristrutturazione appunto immobiliari proprio per questo motivo. Qualche volta questi paradossi ci sono, però Giovanna, appunto onestamente ammettiamo di non conoscere a fondo la questione, ci documentiamo, poi magari se ci vuole scrivere oppure prendiamo il suo numero di telefono e valutiamo in maniera un po' più approfondita. Allora, il bonus l'abbiamo detto, Gabriele, la riforma tariffaria raccontata dallo spot che abbiamo sentito, che peraltro è stato pure contestato da un po' di associazioni dei consumatori, che cosa ci anticipa in realtà appunto questo spot e cosa contiene questa riforma? Allora, fino all'entrata in vigore della tariffa noi pagavamo i costi fissi in bolletta, perché oltre a pagare la componente energia, noi in bolletta paghiamo dei costi fissi, in genere sono il costo per la lettura, distribuzione, misura e quant'altro. Questi costi fissi fino ad oggi erano di natura progressiva, più consumavi e più ti costavano. Ovviamente chi aveva 10 kW impegnati pagava molto di più di coloro che avevano pochi kW impegnati. Questo perché dava origine quindi a una bolletta bassa per le persone singole, oppure per la classica vecchietta che sta da sola, o per coloro che semplicemente volevano risparmiare energia, no? Proprio per avere il risultato immediato. Da oggi, con l'entrata in vigore di questa revisione, in sostanza i costi fissi viene tolta la progressività e viene introdotta la regressività, vengono spalmati in maniera uguale su tutti, al di là della potenza impegnata che hai, e all'aumentare del consumo hai un vantaggio sull'ammontare complessivo di questi costi, nel senso che se sono 20 euro di costi fissi, faccio degli esempi. Sì, esatto, perché ci aiutano a capire meglio. Ma sì, sono molto di più. Fino ad oggi questi 20 euro erano di natura progressiva, cioè diventavano 20, 25, 30 e così via, a seconda del quantitativo che consumavi. Più consumavi e più crescevi. Oggi invece... Saranno uguali per ogni livello di consumo. Esattamente, non sono più 20 euro a partire dall'inizio, ma sono diventati direttamente 35 euro per tutti. Ah, ecco, certo. Poi più cresci e più tendono a diminuire, perché la logica è che l'autorità dice in Italia... bisogna che le persone consumino attraverso l'utilizzo tutto della stessa fonte, ovvero l'energia, anziché utilizzare il gas per fare da mangiare, anziché utilizzare il gas per riscaldarsi, bisogna utilizzare tutta energia. La logica ovviamente noi l'abbiamo contestata, perché come per tutte le cose la differenziazione è quello che fa risparmiare, e poi perché per tutti i motivi che sappiamo in Italia non puoi utilizzare pompe di calore in montagna o nei posti rigidi, perché sappiamo per tanti motivi ne conviene e poi si bloccano. E poi questa cosa di incentivare necessariamente il consumo di energia elettrica ovviamente fa bruciare, passatemi il termine, quelli che sono i comportamenti virtuosi. Se io voglio risparmiare energia, con questa riforma tariffaria paradossalmente invece non solo sono incentivato, ma sono obbligato a dover consumare più energia, perché altrimenti pago di più i costi. Vabbè, insomma, alla fine della fiera lo sa che io non ho capito se ci sarà, come dire, magari qualche risparmio in bolletta per qualcuno o meno, traducendo ulteriormente in soldoni questa novità? No, vi assicuro, già le abbiamo esaminate le bollette, che invece a partire proprio dal primo bimestre, quello che sta arrivando in queste settimane, ci sarà invece un forte rincaro, perché se prima pagavamo i costi fissi, come ripeto, 20 euro, oggi li pagheremo 35 euro e ce ne accorgeremo da subito. E quindi invito le persone subito a confrontare la prima bolletta del primo bimestre 2017 con l'ultima bolletta del bimestre 2016 e subito a notare i costi fissi come sono lievitati. Allora Gabriele, un'altra novità della quale avremmo voluto parlare, quella relativa alle controversie appunto con i gestori, all'obbligatorietà del passaggio alla conciliazione, siccome è un tema importante visto che in Italia le famiglie, i cittadini, i consumatori litigano spesso con i distributori di gas ed energia, ci facciamo una puntata a parte al più presto, per cui diamo tutta la dignità che merita a questo argomento, esattamente come è successo per gli altri. Intanto abbiamo un po' preparato il terreno alle novità in arrivo e purtroppo abbiamo capito non tutte proprio particolarmente positive. Occhio alle prossime bollette. Intanto grazie Gabriele, a presto. Grazie, saluto tutti. Buona giornata. Buona giornata, grazie. Cara mia. Allora, io domani ti rilascio da sola, perché sì, tu lo sa che siamo qua un po' farfalline su questo programma. Ogni tanto qualche impegno ci allontana reciprocamente, ma giovedì ritorno, Per Investire Informati. E allora vi aspetto domani alle 10:30. Buona giornata. Buon pomeriggio a tutti.